YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16 e 5 minuti a Radio 24, in questo momento siamo in diretta fino alle 18 con il nostro RadioTube Social Village e poi Social Network. La prima ora un sacco di spettacoli e anche degli ospiti in studio davvero davvero divertenti, ma non vi svelo ancora nulla. E poi nella seconda ora, quella di RadioTube Social Network, parleremo di tutta l'attualità della rete. E dalla rete, come sempre, potete tenervi in contatto con noi con il 349-238-6666, che è il numero per i vostri SMS e WhatsApp, ma anche con i miei account social, chiocciola Marta Cagnola, su Instagram e su Twitter. Con cosa partiamo? Beh, questa settimana è stata la settimana di alcuni, sicuramente di due, dei compleanni più preziosi della musica italiana. E quindi io partirei così. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Allora, questo brano, beh, lo conoscono tutti, lo staranno canticchiando tutti in questo momento. Lo conosciamo come 4 marzo 43 e quindi sappiamo tutti che era la data di nascita di Lucio Dalla, e in questa settimana sarebbe stato anche l'anniversario della nascita di Lucio Battisti. Ma noi di Lucio Dalla vogliamo parlare, in particolare perché è uscito un libro che io ho divorato, perché ci racconta tante cose che anche noi che siamo convinti di sapere veramente molto di Lucio Dalla, ecco, tante cose che io non sapevo proprio. Si intitola Paola e Lucio e l'autore è Massimo Iondini. Benvenuto Massimo. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Massimo, allora partiamo dal titolo Paola e Lucio. Io so che i più affezionati di Lucio Dalla capiscono subito chi è questa Paola. Chi è Paola? È Paola Pallottino, che è stata l'unica donna della carriera artistica di Dalla e colei anche che l'ha effettivamente lanciato, perché la canzone che abbiamo appena potuto ascoltare è la canzone simbolo di Lucio Dalla, e quel testo fu scritto per Lucio proprio da Paola Pallottino. Per Lucio perché lei, quando compose questo testo, pensò proprio di fare un regalo, di fare quasi una sorta di risarcimento a Lucio per il fatto di essere stato orfano di padre fin dall'età di 7 anni. E quindi questa canzone inizialmente, come molti sanno, doveva intitolarsi Gesù Bambino. Però poi era un titolo certamente audace chiamare come Nostro Signore, intitolare come Nostro Signore una canzone. E infatti la mannaia della censura della RAI e del Festival di Sanremo piombò su questa canzone. Non solo per quanto riguarda il titolo, che fu cambiato in modo geniale, banale, ma geniale nello stesso tempo da Dalla, con la sua stessa data di nascita, che l'ha reso quindi ancora più identificabile e celebre. Ma poi la censura colpì anche lo stesso testo, togliendo certamente una parola che a quei tempi, nel 71, non poteva essere detta in televisione al Festival di Sanremo, che era appunto per i ladri e le puttane. Certo. E poi anche un altro passaggio molto importante è laddove la canzone inizialmente diceva sono Gesù Bambino, per i ladri e puttane sono Gesù Bambino, invece diventò mi chiamo Gesù Bambino. Una differenza piccola ma sostanziale per sì, l'epoca. Anche teologicamente sostanziale. Certo. Allora, Paola Pallottino, che è ancora una grande intellettuale italiana, all'epoca era una signora sposata, madre di due bimbi, che faceva l'illustratrice per libri di ragazzi, che faceva la poetessa e che a un certo punto ha bussato alla porta di Lucio anche su suggerimento di alcuni amici. E in Paola e Lucio troverete tutta questa storia che è veramente interessante. Alcuni testi sono molto noti, appunto come 4 marzo 43 o anche come Il gigante e la bambina, ma ci sono alcune chicche. Come ad esempio, io confesso non conoscevo la storia di Orfeo Bianco, che è anche un pezzo particolarmente interessante. Diciamo che è un po' la benzina, questi primi pezzi come Orfeo Bianco, come Africa, sono un po' la benzina che fanno partire il successo di Lucio Dalla, anche se al momento ancora non si capiva. Sì, è vero, è vero. Tra l'altro Orfeo Bianco uscì proprio esattamente 50 anni fa, il mese prossimo sono 50 anni dalla pubblicazione di questo 45 giri, era il lato B del 45 giri Sylvie, che aveva i testi degli storici iniziali autori di Dalla, Bardotti e Baldazzi, e poi il lato B era appunto Orfeo Bianco. Come Africa venne inserito poi in un album del 1970 di Dalla, Terra di Gaibola. Gaibola è una frazione alle porte di Bologna, dove Dalla con i suoi amici andavano a giocare a pallone e a fare delle gite. E quell'album è un album molto ricco di novità dal punto di vista proprio creativo. Un album magari anche un pochino caotico, nel senso che c'è dentro tanta roba, tante cose diverse che danno proprio l'idea di come Lucio fosse alla ricerca di una propria strada, di una propria via compositiva e interpretativa, di una propria cifra stilistica. Però allo stesso modo è appunto anche una fucina di invenzioni che poi dopo ha sviluppato ancora di più nell'album successivo, Storia di casa mia del 71, che contiene addirittura 4 brani di Paola Pallottino. La loro collaborazione alla fine ha sortito soltanto 8 brani incisi, più uno che non è ancora stato inciso, ma che presto lo sarà. Allora, questo La ragazza e l'eremita, del quale tu ci scrivi il testo e che ci racconti di aver sentito, noi saremmo davvero molto curiosi di sentirlo. Cos'è? È un brano rimasto nel cassetto per 50 anni. Lucio, come era solito fare, quando Paola gli portava dei testi nuovi a casa sua, lo provava, naturalmente provava da sé all'inizio, vedeva quel testo che come lo provocava, quali melodie, quali soluzioni armoniche gli suggeriva, e dopo era solito convocare Paola Pallottino a casa sua, oppure si provavano anche a casa di Paola, perché anche lei aveva un pianoforte, perché sua figlia Silvia studiava pianoforte, e quindi insieme si divertivano a costruire, a realizzare queste loro canzoni. La ragazza e l'eremita è rimasta però incisa su un'audiocassetta per tutti questi anni e non ha mai visto la luce. Ne è stata fatta una registrazione, diciamo così, ufficiale, secondo tutti i crismi, in sala di incisione dalla RCA, allora era la RCA, la casa discografica di Dalla, e adesso il catalogo della RCA è detenuto dalla Sony, che presumibilmente presto darà finalmente alle stampe questo gioiellino dimenticato e ritrovato. Beh, questa è un'ottima notizia, anche perché insomma Lucio ci ha lasciato ormai qualche anno fa e sarebbe veramente emozionante poter risentire qualcosa di nuovo. Ma davvero questa storia della relazione artistica tra Paola Pallottino e Lucio Dalla ha davvero tanti retroscena, la storia del gigante e la bambina. Io non vi voglio raccontare tutto, vi rimando a questo libro che si trova su Amazon sia in ebook che in libro fisico, Paola e Lucio, Pallottino, la donna che lanciò Dalla. Massimo, devo dirti che io l'ho divorato e mi sono sinceramente non solo divertita, mi sono stupita di alcune cose, ho scoperto cose che non sapevo, quindi ti ringrazio davvero con grande sincerità. E quindi, grazie. Massimo, noi aspettiamo questo La ragazza dell'Eremita con grande affetto. Grazie. Anche a Massimo. Sì, perché sarà interessante sentirlo 50 anni dopo, perché è una registrazione appunto datata, per cui sentiamo un Dalla col suo stile, la sua voce degli inizi. Ci emoziona solo a pensarci. Grazie a Massimo Iondini, a presto. 16:15 minuti, viabilità e poi parleremo ancora di musica. Sarà qualcosa, un esperimento molto diverso, tra poco. Radio Tube Social Village. Vabbè, ve lo devo dire che a Sanremo era uno dei miei preferiti? Lo sapete. Una delle canzoni che mi hanno fatto proprio cantare come una pazza nei giorni di Sanremo, alleggeriamoci un po' il cuore. Questa. Spingi forte, salta fuori da quel buio. Crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello volante, con la fantasia di un bambino. Gigante. Allora, giuro che ho fatto solo il lip sync e non ho cantato come una pazza come faccio quando metto questo pezzo in macchina e non mi sente nessuno. Però tu l'hai fatto preciso sto lip sync. Ma com'ero credibile? Ma vacci te a fare la promozione al posto mio. Benvenuto a Radio 24, Piero Velù. Ciao ragazzacci. Ma senti Piero, allora ripartiamo da questo gigante e da Sanremo. Il mio pensiero quando ti ho visto su quel palco è stato: ma perché non c'è andato prima? Perché 40 anni nella musica si compiono una volta nella vita. questo è l'anno giusto. Il prossimo anno sarà il 41esimo, ma questo è il 40esimo, a me le cifre tonde piacciono. Beh, 40 quindi anni sono... Sanremo 70, io 40, 20esimo disco di studio Pugili Fragili. E poi perché no, a salire sul palco dell'Ariston come fosse il mio palco. Ogni volta che quando sono in tournée mi porto in giro tutto il mio modo di essere, tutta la mia commedia dell'arte, tutta la mia teatralità, tutta la mia voglia di spaccare, questo è. Infatti si è visto, era tutto tuo. Pugili Fragili è un titolo molto bello per l'album, è il titolo di un pezzo, però mi sa che in questo momento siamo tutti un po' pugili fragili, l'importante è non essere agli angoli come quelli della canzone. No, infatti nella canzone dico fuori dagli angoli, bisogna uscire dall'angolo sempre, mai farsi chiudere in un angolo. Quindi né fisicamente né psicologicamente, e quindi continuare ad essere sempre pugili pur nella nostra fragilità. Insomma, stiamo vivendo un periodo di forte fragilità, ma al tempo stesso bisogna essere sempre dei lottatori, perché solamente quando abbiamo la forza di rinascere che diventiamo giganti. C'è poco da fare, bisogna sempre avere la forza di rinascere. E infatti Gigante è la canzone che dedico a tutte le persone che hanno la forza e la voglia di rinascere. C'è una nascita che è quella di un bambino, una nascita è quella di un nonno, perché si nasce anche come nonni, ma c'è anche la rinascita di alcuni ragazzi che ho sentito che ti hanno ispirato questa sì. canzone. Sì, Gigante è una canzone che diciamo ha una duplice fonte di ispirazione. Una appunto è quella, la nascita del nipotino, figlio di mia figlia, Rocchino. Ma anche questa esperienza fortissima che ho fatto con i ragazzi dei carceri minorili napoletani, in particolare Nisida, con i quali ho fatto un incontro, ormai si parla di quasi 2 anni fa. Io mi sono proposto spontaneamente per fare un progetto durante il quale avremmo scritto una canzone. È stata molto difficile perché i ragazzi all'inizio non avevano nessun interesse a sviluppare un progetto insieme a me, che per loro era un perfetto sconosciuto, e invece poi alla fine dei 5 giorni di lavoro intensissimo ci siamo ritrovati con una umanità in comune inaspettata e meravigliosa, che è poi quella che mi ha ispirato questa canzone. Letto e ascoltato un sacco di interviste che hai concesso in questo periodo, e hai raccontato dei testi delle tue canzoni, dei contenuti delle tue canzoni, e una delle parole che hai ripetuto più spesso è il concetto di rispetto: il rispetto per le diversità, il rispetto per i sentimenti, il rispetto per l'ambiente. Mi sembra che questo concetto sia basilare in questo Pugili Fragili. Sì, quello del rispetto è uno dei temi portanti di tutto l'album, il rispetto per le diversità, e lo dico in una canzone che ho scritto insieme a Andrea Pino degli Zen Circus, si intitola Fossi Fuoco, ispirata vagamente al grande proto-punk italiano che una roba tra toscani, che c'è con Giolieri, esatto, ma anche rispetto per l'ambiente, quindi la canzone Picnic all'inferno, in cui duetto con Greta Thunberg e Canicola, che guarda caso sono l'inizio e la fine dell'album, quindi rispetto per l'ambiente, e da cui deriva anche il progetto di Clean Beach Tour, che diciamolo, perché sai, cantare di rispetto per l'ambiente, parlare, uno dice vabbè si canta. No, tu spingi le persone e tu sei praticante. Sono un praticante e orgogliosamente, perché da sempre, da quando sono ragazzo, sono stato educato dai miei genitori a raccogliere nell'ambiente quello che altre persone meno accorte di noi avevano abbandonato. Spesso si tratta di rifiuti di plastica. E ho portato avanti questa pratica per tanti anni da solo. Da quando ho scritto Picnic all'inferno ho detto ok, è arrivato il momento anche di cercare di allargare questa pratica anche ad altre persone. Allora, grazie agli amici di Legambiente, ho coinvolto molte centinaia di persone, prima alla spiaggia della Feniglia a Orbetello il 4 di gennaio e poi a Sanremo stessa i primi di febbraio. Quello è stato pazzesco, perché di solito a Sanremo uno si concentra solo, invece tu hai deciso sì, la gara, le interviste, però no, non perdiamo. Sanremo non ero per la gara, io ero per festeggiare. Bello. Beh, d'altronde come tutta un'altra cosa. Come hai detto, sei andato per divertirti. Per divertirmi. E ti sei divertito? E mi sto divertendo anche ora. In questi 40 anni c'è, cioè, Piero Pelù, ci sono anche i Litfiba che ti hanno, seppur non costantemente in questi 40 anni, però immagino sentimentalmente ci sono sempre stati. Certo, certo. Mi piacerebbe sapere, quando tu pensi a quella parte della tua vita, fin da ragazzo, che cosa hai dentro? Beh, ho dentro tutto, perché diciamo la grande esperienza Litfiba, che è tuttora attiva, solamente in stand-by perché ognuno si sta facendo i propri progetti solisti, è, diciamo che è stata una delle più grandi scuole che ho frequentato e che continuo a frequentare dopo tanti anni. Scuola di musica, scuola di ma anche scuola di umanità, perché un gruppo è un grande esperimento umano, siamo cavie di noi stessi, c'è poco da fare, e quindi è bello ed è anche molto interessante vedere come come si evolvono le personalità anche dei vari protagonisti, no, della storia. Ti è capitato di riascoltare o di rivedere cose in questo periodo? Guarda, io ho un archivio mostruoso, ho un archivio infinito di materiale che non ha mai visto la luce fino a questo momento, di immagini che ho girato io stesso, perché sono un cinefilo e un fotofilo. Anche queste pratiche che mi sono state trasmesse dal nonno Mario, che è quello che era uno dei ragazzi del 99 che ha combattuto nelle trincee. Infatti il film 1917 lo consiglio a molti. E quindi ho un archivio pazzesco, però io non riguardo quello che ho fatto o quello che ho scritto. I dischi pubblicati non li ascolto. Dal momento che un disco è pubblicato, per me quel capitolo lì, diciamo, si è in qualche modo esaurito, andrà avanti in evoluzione con il tour, come succederà ora per Pugili Fragili in tour durante tutta l'estate, e dove vi invito a venire perché ne vedrete delle belle. Ma su questo non abbiamo dubbi. Ma io sto già scrivendo cose nuove. Convivenze, collaborazioni. Sono curiosa di sapere come hai lavorato con Luca Chiaravalli, perché io mi sembravano due mondi abbastanza non inconciliabili, però ben diversi. Il tuo mondo rock, allo stesso tempo pulito e un po' sporco, e Luca Chiaravalli, che è uno degli artefici dei grandi successi di questi anni, con molta elettronica, con molta pop anche. Con molto, che poi io viva il pop. Il pop fa parte di noi. Ma avete litigato? Avete trovato un compromesso? Vi siete con Chiaravalli? Allora, Chiaravalli l'ho cercato io. Primo, assomiglia a Joey Ramone. Non ci avevo mai pensato. E invece io appena l'ho visto ho detto: cazzo, questo qui è la reincarnazione di Joey Ramone. Ho detto, e già questo me l'ha reso molto simpatico. Poi abbiamo cominciato a parlare di musica e ho capito che, oltre che essere un fottutissimo figlio di buona donna nel pop italiano, detto nel senso più positivo naturalmente, saluto sua madre che è una grandissima cuoca. No, ho capito che lui comunque ha anche una molto buona cultura nel rock, soprattutto nel rock 2.0, e possiede diversi dischi dei Litfiba e miei da solista, quindi non poteva essere che lui. A quel punto è partita la collaborazione. Io ho giustamente lasciato carta bianca i primi tempi e poi naturalmente l'ho massacrato. Quindi da lì è iniziato, lì è il bello. È iniziato il giusto massacro, perché ok, prima cerco di capire tu che cosa puoi dare a me, dopodiché naturalmente parte la fase del compromesso. E diciamo, questo grande compromesso è il sound di Pugili Fragili. Ho ancora due cose da chiederti, una cattiva e una buona, no scherzo, quella più cattiva. Quando nei giorni di Sanremo hanno detto che il tuo gigante assomigliava a un pezzo di Erasmus, la tua reazione è stata? Andare ad ascoltare questo pezzo di Erasmus, mi sembra il minimo. E ci sono delle somiglianze, onestamente, non lo posso negare, ma è una cosa totalmente casuale. Poi ci sono tantissime differenze tecniche che non ti sto a elencare in questo momento, ma se mai dovesse venire fuori diciamo un confronto con Erasmus, saprò come rispondere, ecco. Invece senza voglio problemi. Sapere cosa ti hanno detto del pezzo. Ora fammi quella cattiva. Ok, no dai, questa era quella cattiva, io non riesco a fare era domande cattiva, questo era il più cattivo che mi veniva. No, sei una delle poche che me l'ha domandato in realtà. Perché vedi il paraculismo com'è, che tanti l'hanno scritto ma pochissimi me l'hanno domandato di persona. Volevo saperlo. Voglio sapere cosa hanno detto di Sanremo, del pezzo e dell'album, i tuoi Litfiba, i tuoi ragazzacci, e se l'ha sentito il gigante, il piccolo, e se ti ha visto e cosa ha detto. Allora, i Litfiba mi hanno fatto i complimenti e questo mi ha fatto molto piacere. Il nipotino Rocchino se lo balla e se lo poga con le sue cuginette alla grande, per cui ogni tanto mia figlia mi manda i filmati. Così si fa. Una bomba atomica. Così si cresce. Vedi, tu sei cresciuto col nonno. Ma poi, soprattutto, i ragazzi dei carceri minorili di Napoli, ora, soprattutto quelli che hanno seguito un programma con successo e ora fanno i pizzaioli, ad esempio, fuori dal carcere, dicono: uè, Piero Velù è amico mio. Così si fa. Questo sì che orgoglio. Un grande, buoni 40 anni, buon, allora buona fine dei primi 40 anni e buon inizio dei prossimi 40. Mi piace così. Grazie per essere stato con noi, Piero Velù. Grazie a te. Allora, adesso ne dico ancora una. Dai, quando ho detto, però dilla cattiva davvero. No, questa. Quando ho detto deve venire Piero Velù, però magari il coronavirus, un mio amico ha risposto: ma che coronavirus, Piero Velù arriva a petto nudo davanti al coronavirus. A noi tecnicamente il coronavirus ci fa una sega. Grazie ed Piero. È ufficiale. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You are never too small to make a difference. Make a difference. Scesa dalla luna come una nave di vichinghi nella notte scura alla Casa Bianca forte come un manga. You have ignored us in the past and you will ignore us again. Ignore us again. Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Che cemento, siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. E questo era il picnic all'inferno di Piero Velù. Vedo che l'account di Twitter di Radio 24 ha appena postato la foto con Piero Velù. A distanza di sicurezza, ragazzi, non ci si possono fare le foto abbracciati, niente, foto a distanza di sicurezza, andatevela a vedere su Twitter, la riposto subito anch'io. Allora, una breve pausa e poi saremo ancora insieme per parlare di cinema, sì, ma a casa. Radio Tube Social Village. Eccoci ancora insieme, sì, su Twitter vi ho appena retweetato la foto con Piero Velù, ovviamente a distanza di sicurezza perché siamo tutti molto ligi nelle norme di igiene, ma ho anche postato, se andate a vedere sul mio account di Twitter, una mia foto di 20 anni fa, perché io 20 anni fa, cioè compio oggi 20 anni di Radio 24 e mi sono resa conto quando ti dicono: sai, non sei per niente cambiata. Se ero una bambina 20 anni fa, ero davvero una bambina. Ma allora, torniamo a queste misure necessarie per un po' di tempo, per vivere la nostra vita quotidiana, per cercare di proteggerci, proteggere i nostri cari, aspettare che la situazione si calmi, contribuire a calmare la situazione. Possiamo fare poche cose, una di quelle cose che possiamo, anzi dobbiamo fare, è stare il più possibile in casa. Allora, prendiamo un po' di tempo per noi, prendiamo un po' di tempo per leggere un libro, prendiamo un po' di tempo per guardare delle serie TV, ne parliamo tantissimo, ma perché non ci prendiamo un po' di tempo per vedere un film? Io ho deciso in questi giorni di mettermi a guardare dei vecchi film. Chissà che cosa gli è passato per la testa a quello. Ah, ecco come è cominciato, questo mi ha detto. Ma dove li comprerete questi vestiti? Ecco così. Beh, effettivamente. Cosa? Beh, un po', come dire, audace. È audace. Un vestito così, di lana, va bene, è audace. Allora che le monache sono audaci. Capisco fosse organzino, si scivola tutto, è trasparente, lascia vedere, allora va bene, avete ragione voi. Ma un vestito come questo, tutto abbottonato, perché lei vede che è tutto abbottonato, secondo lei è audace. Ah, beh, se è lana. Allora si espatria. into my life and take me to your heart. Tell me that forever you'll be my love. Allora, questo film che ho guardato l'altra sera per caso si chiamava Le Fate, un film del 66 diretto da Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Antonio Pietrangeli, Luciano Salce, uno di quei film a episodi che andavano molto di moda negli anni 60. In questo episodio avete sicuramente riconosciuto la voce di Monica Vitti, meravigliosa in questo film, con un automobilista che le dava un passaggio che era Franco Balducci. Come l'ho scoperto? Ma mi sono detta, io voglio vedermi un po' di vecchi film, magari della vecchia commedia all'italiana, dei vecchi film da recuperare che non ho mai visto. Mi sono messa a curiosare nelle piattaforme. In particolare, io questo l'ho trovato su Amazon Prime Video, che ha veramente una antologia ricchissima anche del passato, così viva Dio, mi sono messa a guardare in casa un film bellissimo e me ne sto guardando tantissimi ogni giorno. Bisogna prenderci il nostro tempo in questo momento, e allora lo facciamo anche guardando un po' di classici del passato. Però ho bisogno anche di qualche consiglio. Allora, per avere tutti i consigli per me, insomma per tutti noi, ho chiamato un grande amico di RadioTube, Gabriele Niola. Ciao Gabriele! Ciao Marta. Allora, dai, non è una cattiva idea, perché in alcune regioni purtroppo i cinema non sono aperti. In altre regioni bisogna andare al cinema con un po' di cautele. Io ho visto queste foto di file alternate, posti occupabili. È giusto, bisogna stare un po' attenti e prenderla come viene. Ma insomma, se riusciamo anche a investire questo tempo sospeso facendoci un po' di cultura cinematografica, perché no? Mi sono detta. Gabriele, tu cosa ne pensi? Dacci qualche consiglio. Beh, male non fa. Allora, innanzitutto voglio dire che non è possibile che io possa dare dei consigli a te. Cioè, possiamo darli al pubblico di Radio 24. No, guarda, ne ho da studiare. Su Amazon Prime Video, hai ragione, c'è una selezione di film della commedia all'italiana, ma poi devo dire specialmente di Alberto Sordi, molto, molto ricca. In particolare c'è un film che raramente fanno vedere tra i molti che ha già Alberto Sordi e che invece è interessante, che è Lo Scapolo. È uno di quei film, a un certo punto lui infilò una serie di questi ritratti umani che erano il marito, il vedovo, il seduttore, e tra cui c'era anche Lo Scapolo, ma Lo Scapolo è completamente diverso dagli altri, perché è diretto da Pietrangeli, che è un regista che stranamente non riteniamo grande quanto Scola, Monicelli o Risi, eppure era straordinario, ed è un raro film di Alberto Sordi che coniuga sia tutto quello che amiamo del cinema di Alberto Sordi, la sua personalità, il suo umorismo, sia poi uno strano modo di fare, una strana aria femminista che è molto rara poi in questi film italiani degli anni 50, che lo rende veramente particolare. Allora, altri classici italiani che hai scoperto in questa piattaforma? Allora, c'è sempre per la categoria grandi nomi che conosciamo, ma film che poi in realtà non sono quelli che più conosciamo di loro, c'è Bellissima, che è un film di Luchino Visconti, che non sembra un film di Luchino Visconti. Cioè, se voi vi immaginate Il Gatto Pardo, La Terra Trema, questi grandi film con grandi interni, invece è un film che sembra proprio il cinema italiano, come del resto è degli anni 50, con Anna Magnani, che racconta una storia eterna, una storia che da quando esiste lo spettacolo esistono queste storie, di una mamma che cerca di piazzare la figlia nel mondo dello spettacolo, solo che la figlia è proprio piccola, è una bambina, e Bellissima è riferita a lei, una bambina molto bella, molto carina, e lei con una forza arrembante incredibile, del resto è Anna Magnani, la spinge in tutte le maniere, ed è veramente un film sia divertente che moderno. Dai, classici anche internazionali che prendiamo nota. Allora, anzitutto io scorrendo il catalogo ho trovato il classico dei classici, cioè il film più classico che possa esistere dopo Via col vento e dopo Il mago di Oz, che è Quarto potere, il film dei film. Allora aspetta, entriamo in atmosfera, perché ce l'abbiamo una clip di Quarto potere, ce l'abbiamo. Vi dico che soltanto un uomo può affrancare questo stato dal nefasto dominio e dai rovinosi intrighi di Jim Gattis. Bravo. E mi riferisco a Charles Foster Kane, l'uomo di grandi vedute, l'amico di tutti i lavoratori, il futuro governatore di questo stato, che ha presentato la sua candidatura. Finora, lo sapete, non mi sono azzardato a fare promesse, perché fino a qualche settimana fa non avevo alcuna speranza di venire eletto. Adesso però ho qualcosa di più di una speranza. E Jim Gattis ormai non ha più neanche quella. Allora, secondo me Quarto potere è uno di quei film, ma si può fare lo stesso discorso anche con i libri, che si citano sempre, ma mica tutti hanno visto davvero. È vero, se poi uno andasse a chiedere, ma quale, ti ricordi qual era la storia? Molti sarebbero sicuramente in difficoltà. E invece, di nuovo... Pensa che io ti risponderei, avendolo visto moltissimi anni fa, Rosabella, la slitta, la cosa, ma non devo riguardarmelo. Sì, e c'è anche, poi posso dire, è anche un film che è stranamente ritornato nell'immaginario collettivo, perché la GIF, l'immagine in movimento più usata per rispondere, è quella di Quarto potere, di lui che applaude. È vero, è vero, è vero. GIF in bianco e nero di un signore attempato che applaude vigorosamente, quello è preso da Quarto potere. E anche qui è una storia molto moderna, perché quello che sta succedendo in questi anni, lo stiamo vedendo, è che le grandi aziende diventano sempre più grandi e diventano dei centri di potere molto molto forti, che hanno tutto. Ecco, all'inizio degli anni 40 Orson Welles raccontava la storia di un magnate, un uomo che ha tutto, soprattutto all'informazione, quindi quello che all'epoca erano i giornali, e va in politica, che è una cosa più moderna che ci possa essere, però non è mai soddisfatto. Chiaramente la storia è raccontata all'indietro, lui nella prima scena muore di anzianità, e c'è qualcuno che vuole capire chi era questa persona, vuole veramente andare a fondo, e la storia del film è questa, tutto in flashback, per cercare di capire chi era, come mai, come è diventato così potente, ed è una storia modernissima. Classici più recenti? Allora, ti posso dire, c'è uno dei miei film preferiti su Amazon Prime, che è Brasil. Ah, certo! Brasil è un film completamente matto, completamente fuori, e in teoria doveva nascere come una cosa, non dico semplice, però insomma ordinaria. È un film che praticamente, senza pagare i diritti d'autore, adatta 1984 di Orwell. È quella storia lì, il grande fratello, no? La società distopica e tutto quanto. Però siccome l'ha fatta Terry Gilliam, che era uno dei Monty Python, quindi comunque uno con un certo suo umorismo, con una certa sua vena un po' schizzata, è un film tutto di effetti artigianali, è un film su una persona perseguitata dalla burocrazia. Ci sono alcune delle più belle scene di ufficio paradossale, chiaramente grottesco, che io abbia mai visto. E c'è in questo mondo in cui c'è questo grande fratello che ordina tutto, regola tutto, c'è uno straordinario cameo di Robert De Niro, piccolo, un ruolo veramente piccolo, che fa un ribelle, quasi un terrorista, che però invece di distruggere le cose le aggiusta, cioè lui arriva e aggiusta le cose che apposta il governo magari ha rotto perché ha degli interessi in questa roba qua, lui viene e le ripara, e in questo è anarchico sostanzialmente. Beh, allora facciamo che io stasera Brasil, quindi facciamo una cosa. Visto che questi film in televisione ormai li passano molto di rado, soprattutto quando sono in bianco e nero, perché è difficilissimo, ne abbiamo parlato già una volta con uno dei nostri ospiti, rivedere i film in bianco e nero. Questa sera ci guardiamo uno di questi film, poi noi abbiamo parlato della piattaforma di Amazon Prime Video perché è veramente molto ricca, ma vedrete che poi l'algoritmo comincerà a suggerirvene sempre di sì, farà il suo volo per parafrasare il film di Giorgio Diritti. E se siete fortunati che potete andare al cinema, magari una volta così questa settimana potete andare al cinema con tutte le distanze di sicurezza, se andate a vedere i film di Giorgio Diritti, io sono contenta. Se andate a vedere Volevo nascondermi, ecco, magari appunto chi può dà anche una mano al cinema italiano con tutte le misure del caso. E ovviamente è così. Grazie a Gabriele Niola, un abbraccio. Anche a te, ciao. Un abbraccio da lontano, purtroppo. Allora, viabilità, sono un pochino in ritardo, me ne scuso tantissimo, e poi apriremo una pagina di televisione. Radio Tube Social Village. Cominciamo da una trasmissione che si è conclusa questa settimana e si è conclusa così. Buonasera. Buonasera giudici. Ben arrivato. Grazie. Tu sei? Antonio Lorenzon. Che piatto hai portato? Dei ravioli con una bisca veloce e con un croccante sopra. Di pane saltato in padella con un'acciughina tritata. Hai visto che io non ho parlato? Certo. Perché ho avuto un'esplosione in bocca. E quando c'è l'esplosione ti prende un po' la testa, il cuore, tutto. Ti avvolge l'esplosione. Perciò per me è un grande sì. Grazie, chef. Sai, sono andato là per cercargli di dirgli questo. Cioè, messo in bocca, più masticavo, più capivo che non gli potevo dire niente. Questo era uno dei giudizi sul vincitore di MasterChef 9, il nono MasterChef, Antonio, e ovviamente avrete riconosciuto Antonino Cannavacciuolo. Maestro, salve, maestro, che gioia trovarti telefonicamente. Telefonicamente. Allora, intanto ti devo chiedere come è andata questa conclusione di MasterChef, che è stata, a parte, vabbè, premiata dagli ascolti, però molto emozionante con questa proposta di matrimonio. Ne parleremo anche in Radio Tube Social Network nella prossima ora, perché è finita su tutti i siti. Com'è stata per voi questa finale frizzantina? Vabbè, è stata una sorpresa pure per noi, perché noi non sapevamo niente di questa sorpresa di Antoni. Faceva la dichiarazione d'amore, cioè è stato veramente un momento bellissimo. Inaspettata, è stato bellissimo, la conclusione di un percorso bellissimo con, diciamo, la proposta è stata la ciliegina della torta, dai. Bello. Ho avuto l'impressione che in questa edizione voi vi siate, e l'ho detto anche la scorsa settimana, perché ho avuto l'occasione di incontrare Chef Barbieri, il tuo collega. Bruno. Io c'ho questa. Voi siete. Io non so neanche. Io non so cucinare, quindi per me voi siete delle leggende, ragazzi. Vabbè, poi ti racconterò che una volta io ho fatto una pastella davanti a te. Guarda, ho ancora la foto della faccia. Dove? Che. Guarda, hai fatto una masterclass di cucina in cui io mi sono infilata e mi hai. Guarda, non posso neanche dire cosa mi hai detto, perché è proprio. Vabbè. Comunque, sono cattivo? No, sei. Guarda, non sei riuscito neanche a essere cattivo. Cioè, proprio non c'era speranza. Cioè, mi rientro, sì, in me. Quando vedi quelle cose brutte, che sì, prima di fare danni, sto zitto, capito? Sì, ho provato a impanare un fiore di zucca, ma niente. Però questa volta, come ho detto appunto a Chef Barbieri, cioè Bruno, mi sembra che si sia creato proprio anche un rapporto di amicizia e di affetto con tanti vostri concorrenti. Avete proprio, sì, creato grande intimità. Sì, vabbè, sicuramente c'è stata una grande intimità e umanità pure, perché alla fine, se tu pensi a Vincenzo, io ti favo, sì, io ti favo per Vincenzo, per Luciano, cioè tutte persone, Anna Maria, cioè tutte persone di una certa età che si mettono in gioco e prendono la vita serena, no? Perché alla fine stiamo cucinando, ci dobbiamo divertire, è logico, fa parte un po' di tutto il percorso, il sale scende, l'errore. No, noi guardiamo molto pure la crescita di un ragazzo, la sensibilità che ha, per dire che ci sono dei concorrenti che sono partiti forti dove noi eravamo puntati e non sono mai venuti fuori, ma alla fine nella vita basta che danno qualcosa in più degli altri che sono arrivati fino in fondo, no? Perché poi cucinare davanti a una telecamera non è facile, non è facile. Il tempo, la cosa più brutta, la cosa che ti distrugge è proprio il tempo in cucina. Per cucinare non devi avere tempo, perché alla fine devi accarezzare il cibo per ottenere dei risultati bellissimi, no? Invece qua il cibo, con la competenza. Ma non lo dico io, tu fermati un attimo, se hai avuto la fortuna di vedere tua nonna quando cucinava. Ah, mia nonna era bravissima. E lei accarezzava il cibo. Il fatto di andare là, assaggiare ogni 10 minuti, girare, assaggiare, mettere un pizzico di sale, oggi ci mettiamo in sale una volta si metteva 2-3 volte, si portava la salatura giusta, mettendo in sale 2-3 volte, quello per me erano carezze che dava, che la nonna dava al cibo, capito? Perciò dico. Accarezzare il cibo. La mia nonna Ancilla che faceva quella bella cucina brianzola, bella pesante, ecco. Antonino, però adesso per noi orfani di Masterchef, però la buona notizia è che ci tieni ancora compagnia, perché dal 12 marzo su Sky e Now TV arriva Family Food Fight, FFF, con Joe Bastianich e Lidia Bastianich, che insomma, alla quale vogliamo tutti bene. Che cos'è Family Food Fight? Vabbè, un altro programma molto interessante e molto bello, dove si parla tanto, ma tanto, tanto di tradizione, sia di tradizione, di festività, del pranzo della domenica, un po' in famiglia. Io, Gio e Lidia siamo entrati nelle famiglie a vedere le loro tradizioni, le loro occasioni speciali, questo è il bello. Vediamo dalla nonna ottantenne al ragazzo di 20 anni, cioè si arriva là puntando tutto sulla nonna, invece esce fuori il nipote perché la nonna, tolta dalla cucina di casa, per i primi periodi si trova un po' fuori luogo, no? È il bello. Comunque alla fine è un programma che ti assicuro che si mangia tanto, tanto, tanto, perché si cucina tanto e vediamo sfidarsi, ognuno porta la sua tradizione, ognuno porta la ricetta che poi dica la fine del campanile, perché secondo me ogni campanile in Italia c'è una ricetta diversa, la stessa ricetta cambia il campanile, cambia la ricetta, no? Chi ci mette le uova, chi non ce le mette, chi ci mette solo il bianco, chi ci mette solo il rosso, chi impasta 8 uova, chi impasta 15 uova, la stessa ricetta, cioè quello è pure il bello. Noi abbiamo in Italia tanta tradizione, ma che cambia a campanile, diciamo così, quello è il bello. E poi vediamo tutte queste sfaccettature, poi dal nord al sud si vede proprio la differenza, che poi al sud si mangia di più, vedi queste tavole imbandite di cibo del sud, meno imbandite di cibo al nord. Devo dire che noi però in Brianza imbandiamo meno, ma perché potremmo stroncare con le nostre specialità, sono più intense. Intervista ho detto, la nostra Domenica di Giù è una Pasqua del Nord. Sì, forse è vero. No, forse è la verità, no? È la verità di fatto, non è per dire di più di meno, per fare sempre, per dividere, no? Non dividiamo proprio niente, la verità è il giù si mangia qualcosa in più, infatti pure i sapori, come fai a dire no davanti a una buona mozzarella? Io dico sempre una buona pizza, tu non puoi dire di no. È un peccato. No, neanch'io che sono nordica. Una pizza, una grande pizza, una grande spaghetto, una grande pasta, cioè tu non la mangi, devi andare in chiesa a confessarti che hai fatto peccato. No, hai ragione, è vero, bisogna andare a confessarsi in chiesa che hai fatto peccato. Hai ragione. Fammi segnalare anche che Radio 24 abbiamo lanciato l'iniziativa hashtag Io Resto in Italia. Devo dire, appunto, a questo punto anche voi restate in Italia. Da una vita che voglio dire, io amo. Sono italiano e dico solo che siamo fortunati a nascere qua, perciò dobbiamo dare un po' pure agli altri. Vero. Non ci dobbiamo chiudere. Ecco, io mi sintonizzerò dal 12 marzo su Sky e Now TV a sognare questi pranzi imbanditi a sud ma anche a nord con Joe Bastianich, con Lidia Bastianich, Family Food Fight, FFF, 3F, ma soprattutto con il nostro adorabile Antonino Cannavacciuolo. Grazie per essere stato con noi. Forza Italia, e un bacione, un abbraccio a tutti. Un abbraccio grandissimo, provo io a dare una pacca a te se ci arrivo. Grazie Antonino, facciamo a presto. Pure, ce la facciamo pure adesso. Grazie Antonino, un abbraccio. Allora. Dopo aver parlato di Masterchef, non è finita qui, perché ovviamente dovremo un po' riparlare di Masterchef nella seconda ora, quella dell'attualità della rete e dalla rete. Dall'altra parte del vetro vedo che è già arrivato il co-conduttore d'eccezione. In realtà non lo vedo perché ho tolto gli occhiali, ma so che è già arrivato il co-conduttore d'eccezione. Sono tra qualche secondo le 16:57, quindi diamo la linea alla redazione perché c'è quasi il giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme.